and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Lunedì, bello pimpante. Cos'hai, Drago? Cosa hai fatto il weekend? Questo weekend ho pensato tutto il tempo al bambino Alberto. Infatti, no, ma sono curioso di capire come è andata a finire con quei film che gli fanno vedere i suoi genitori, no? Ma come? Sì. I film quelli tristi. Sì. Ma dai, aveva detto anche, io ho dei sospetti, insomma, dai. Cioè? Mi sono un po' preoccupato l'altra volta. Oh, bambino Alberto. Eccoti qua. Eccomi. Allora, com'è andato il weekend? Secondo voi? Non so. Ho passato il weekend a vedere film di bambini morti. Ecco, visto? Ma ancora, ma povero bambino Alberto. Sì, ancora. E poi voi mi dite che sono io che penso male. Vabbè, ma dai, ma smetti. Adesso cos'è? Ancora la storia che sei malato, che quindi dietro i film c'è un significato. Beh, allora, scusate, a me i segnali sembrano chiari, no? A questo punto è assodato che, allora, io ho la leucemia. Ma no, dai. E i miei non sanno come dirmelo. Ma ecco. E allora mi fanno vedere dei film dove tutti i bambini biondi muoiono di leucemia. Ma smetti, dai, bambino, alza bandiera, non è no, così. Alza bandiera no, Dai, bello alza bandiera. Tu sai che io sono stato allevato nel pacifismo estremo. Vabbè, ma che film hai visto sto fine settimana? Ne ho visti due. Due. Weekend, due film. Uno, vabbè, penso che lo conoscano tutti. Ed è Incompreso. Ah beh, certo, che bello Incompreso, che bel film. Sì, però non parla di leucemia, quello lì. Bravo, infatti. Ah no, beh, però c'è un paraplegico. Un bambino paraplegico, tipo il mio cugino Luca, no? Sì, vabbè, vedi che quindi non hai la leucemia, ti eri immaginato tutto, insomma. Vabbè, ma allora magari ho una malattia progressiva, no? Ma prima o poi finisco sulla sedia a rotelle. Smettila, dai, certe cose non si dicono nemmeno per scherzo, nemmeno per ischerzo. Ischerzo? Ischerzo, si ischerzo. Dice, sì. Vabbè, comunque, l'altro film è Il venditore di palloncini. Questo non ho mai sentito, mai visto, no. Il venditore di palloncini. Beh, beate voi. Com'è? Qui c'è, allora, c'è un bambino di 5 anni, biondo. E c'ha la leucemia, no? Aspetta un attimo! C'è un bambino di 5 anni, biondo. Sì. E i genitori hanno una differenza di età tra loro tremenda, no? Cioè, la madre del bambino aveva 30 anni meno del padre. Sì. E sono due attori, e recitano insieme. Recita che recita, la madre, giovane, e un giorno incontra un attore, no? Sì. E si innamora dell'attore. Più giovane del... Molto più giovane del marito. Vabbè, una storia comune. E quindi questa qua perde la testa e scappa via e abbandona il marito e il bambino. Ah, ecco. Allora il padre, per non traumatizzare il figlio, gli dice che la madre improvvisamente è partita per una tournée all'estero e non si sa quando torna, no? E arriva fino a qua. Poi dopo, sei anni dopo, improvvisamente siamo 6 anni dopo, sì. E la madre non è mica tornata. Sempre e questa padre, tournée. Ma ormai il bambino non ne parla più. Bob Dylan, scusa, è vero. È l'Everend in tour, è vero. E nel frattempo il padre è alcolizzato. E beve. Dopo e beve di brutto. Il bambino ha 11 anni, è lui che praticamente è il capo famiglia. Perché il padre sta tutto il giorno giù in trattoria a bere, no? Che tra l'altro lo prende tutto in giro. Perché proprio... E la moglie se n'è andata, no? E lo prendono in giro. E il bambino, per raggranellare qualche soldino, per mantenere il padre, che poi il padre se li beve, il bambino va in giro per la città e fa dei spettacolini con i burattini, no? Ma così, da solo? Nei giardini, da solo, va nei giardinetti con il suo carrettino, con i suoi giocattoli, per lui, e raggranellare qualche soldino, Glielo dà il padre, e il padre? E lui, ma per mantenere il padre questo deve stare in giro dalla mattina alla sera, Il bambino esce la mattina e torna la sera con sto carretto avanti e indietro, che un bel giorno il bambino sta male, Si accascia. A forza di andare avanti e indietro col carrettino, capito? È una cosa distrutto, che, no? Notoriamente fa accasciare. Allora, tipo, lo portano all'ospedale, lo visitano e il medico scopre che c'è un problema, E sto bambino ha un'anemia tremenda, un'anemia mortale. Un'anemia? Un'anemia perché... Ha cambiato malattia. Per la denutrizione. Questo mangiava pochissimo per far bere il padre, no? Ah, ecco. E poi faticava. Anemia è incurabile. Ma come incurabile? Allora qui l'unico scopo è fargli passare ipodecentemente gli ultimi tempi, no? Ma no, ma scusa, non potevamo dargli da mangiare, Ormai è troppo tardi. Allora andava in giro col carrettino, il padre beveva, che gli dava da mangiare? Allora. Vabbè. E questo qui, e niente, alla fine, allora, no? No, il film no, voglia, qui inizia, no? Perché il padre è distrutto. Il padre è il bambino che sta male. Già, senso di colpa. Poi senso di colpa, no? Tremendo. Allora, Sì, ma la mamma anche. Lascia la sera, va a trovare il bambino all'ospedale, poi la sera torna a casa distrutto, no? E incontra il suo vecchio amico, un suo vecchio amico di bevute, no? Sì, vabbè. Che è un ex galeotto, tra l'altro, no? Che lo chiamavano Vent'anni. Beh, giusto. Vent'anni perché aveva fatto 20 anni di galera, Sì. Allora, oh, lo porta a casa sua, che non voleva passare la notte da solo a pensare a suo figlio. E lì bevono di brutto, no? Con 20 anni. Ciucca, la mattina dopo, 20 anni, si sveglia e il padre non c'è. È perché corso all'ospedale a vedere un po' il figlio, come va, bambino, come va? E mica tanto bene. Allora, 20 anni, si sveglia, non c'è più nessuno. Fruggono un po' in casa e trovano una cassettina con dei soldi, che erano tutti i risparmi che il bambino aveva messo via per il padre, no? Per il futuro del padre. E 20 anni si riprende. E questa è una mazzata. Questa è una mazzata per il padre, distrutto. Questo qui porta via i soldi, no? Nel frattempo, il bambino, in ospedale c'è una suora, no? Alla suora lui dice: guarda, suora, perché ormai questo la voce non ce l'ha più, suora, guarda, a casa mia c'è una cassettina con dei soldi che sono i risparmi della vita, no? Per mio papà. Allora, lo dice, la suora lo dice al padre, il padre va a casa e i soldi non ci sono più. Allora, ammazzata tremenda, no? Il bambino che sta male, i soldi portati via. Allora, il padre, dopo questa ammazzata, dice: beh, qui bisogna fare qualcosa, bisogna fargli rivedere la madre a questo bambino, no? La madre che non c'è più da una vita. Già, era un tournée, padre, con Bob Dylan. Questo qui è un film. Solo che questa qua, 6 anni prima faceva l'attrice, no? Poi invece lì al bar dove il padre andava a bere, girava qualche voce che questa qui magari dopo ha smesso di fare l'attrice e faceva... camminava sul marciapiedi, no? Ma pure, ma cos'è? Ma sì, la storia... Allora il padre, che in fondo sapeva, dice: beh, adesso la vado a trovare. E gira per la città con un tassista, no? Gira tutte le zone dove c'erano quelle lì, no? Notoriamente, sì. E non la trova. C'è un appunto, incontra una collega, una passeggiatrice anche lei, e dice: sì, ma tua moglie lavora là. Scopre dov'è, va, è un albergatore, no? E sale su, apre la porta e c'è sua moglie e con un altro. Poi pazienza, dato qua ormai sono passati 6 anni, il bambino sta morendo. Ok, prendi la madre che all'inizio non ci crede, dice: no, tu mi prendi in giro, che voglio riportarmi a casa tua. Invece poi capisce che è vero. Niente, allora lui la prende, tornano, passano da casa di lei che deve cambiarsi. E il cliente? Necessità... Ma scusa, il cliente? Era vestita la passeggiatrice, no? Ma scusa, ma il cliente che era rimasto lì, ma insomma era lì, poverino. Lascia stare. E gli è finito. Vabbè, ma gliel'avrà rimborsato. Ma si paga prima, no? Ma non c'è nella storia. Vanno via, si cambia, si veste da... non da suora, ma insomma, la donna per bene, vanno all'ospedale. E lì, all'ospedale arriva il padre, la madre, che vede il bambino, e quella è una scena lì bellissima, che c'è il congiungimento, no? E poi arrivano anche gli amici del bar, no? Quelli che lo prendevano in giro, tutti commossi. E arriva anche Vent'anni. Come Vent'anni? Ma Vent'anni che vede il bambino e confessa, pentito, che i soldi li aveva presi lui e glieli dà. Allora lì, tutti diventano buoni, no? A un certo punto, il bambino... che sta per morire, esprime l'ultimo desiderio: voglio andare al circo. Come al circo? È una follia andare al circo, no? Stai morendo? Poi invece sia la suora che il primario, primario è un tipo che nel film Adolfo Celli, avete presente, no? Sì, sì. Tutto autoritario. Alla fine questo qui, sia lui che la suora dicono: vabbè, danno il permesso, vai al circo. Anzi, vanno anche loro. Ah, ecco. Quindi vanno il bambino, il padre, la madre, la suora, il primario, Romolo che è il proprietario del bar, gli amici del bar e Vent'anni, tutto al circo. Arrivano al circo e lì c'è il direttore del circo, che è Gianni Agus, che dice: no, lo spettacolo è finito, Ma come? È appena finito. Ma no. Però vede il bambino in braccio al padre, è tutto, è morente, e dice: vabbè, facciamo questo spettacolo. Ah, solo per loro. Riapre per loro. Oh, quindi salgono, vanno dentro, e lì, mentre guardano lo spettacolo, il bambino si gira e capisci che lo vede solo lui, no? C'è un signore vestito di nero con dei palloncini, perché uno diceva: sti palloncini cosa c'entrano? E alla fine si capisce che le dice che lui è un venditore di palloncini e spiega al bambino che ogni tanto i bambini perdono i palloncini vanno in alto, che parlano con gli angeli, bla bla bla, una storia che poi non ho capito. E comunque poi questo uomo dà il palloncino al bambino e lì sai cosa si capisce? Che quando gli dà il male al bambino si capisce che il palloncino va su, no? Perché il bambino lo lascia andare e lì vuol dire che è aspirato, no? E che la sua anima va in cielo. E quindi alla fine, nonostante il congiungimento e i soldi che Vent'anni ha riportato e il circo, il bambino muore. Ma poi è un dramma, no? Per chi lo guarda, o no? Vai dalla nonna che ruota la gonna, non dire strafalcioni, la nonna i pantaloni. Queste strofe arrivano da Nonna Grazia. Grazie, Nonna Grazie. Grazia. Grazie, Nonna Grazia. Continuate a mandare le strofe per la sigla finale di Chiedo Asilo a chiedoasilo@radio24.it. torniamo domani. No, no. L'abbate Stoppani. E chi pure? Siamo tutti lontani. Chiedo asilo.